punto, punto, punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Solo un punto specifico vorrei aggiungere, se posso, per quanto riguarda l'atteggiamento del governo o di suoi membri nei confronti di iniziative, complotti dei poteri forti o delle multinazionali o di superpotenze negli Stati Uniti o in Europa. Permettetemi di rassicurarvi totalmente, ma proprio totalmente, anche perché le nostre modeste storie personali parlano in questo senso. Quando a me è capitato, ma ci sono colleghi che anche hanno avuto responsabilità pubbliche in momenti della loro vita, di essere commissario europeo a Bruxelles, non sono sicuro che le grandi multinazionali mi abbiano colto come un loro devoto e disciplinato servitore. Mario Monti è dunque il nuovo primo ministro italiano, il nuovo capo dell'esecutivo, e si preoccupa, tra l'altro, nel suo intervento di ribadire un concetto che gli è stato in qualche modo imputato nel corso della settimana. Dice: non sarò il servitore dei poteri forti. Intanto, cari amici, cari ascoltatori di Radio 24, un buongiorno da Gigi Donelli, da Fabio Cantadori in regia questa mattina. Dunque, inevitabile la nostra apertura. Monti in particolare si riferisce a, diciamo, la sua esperienza da commissario. Allora l'economista di Varese si fece carico, erano gli inizi degli anni 2000, dell'accusa di Sun Microsystem al colosso Microsoft, invece il colosso di Bill Gates. Era l'accusa, in quel caso, era abuso di posizione dominante, un'accusa che aprì una vertenza, appunto, internazionale molto importante e drammatica in alcuni passaggi, che portò alla condanna di Microsoft con il pagamento di 497,2 milioni di euro di multa e l'obbligo soprattutto di fornire una versione del sistema operativo contestato senza il lettore multimediale. In sostanza, i rivali di Microsoft lamentavano l'obbligo di prendere e di utilizzare il pacchetto Windows nel suo complesso, con una serie, appunto, di accessori di software. Ecco, un caso che ha fatto scuola, un caso che ha visto ribellarsi, reagire Bill Gates e i soci, che hanno dunque intentato la sentenza. Il ricorso però è finito di fatto nella stessa direzione, una nuova stangata contro Microsoft, del valore questa volta di 889 milioni di euro. Insomma, Mario Monti, ricordando quel passaggio, cerca, attraverso anche un esempio, di rassicurare chi, appunto, lo accusa in un governo di tecnici, che pure è stato di fatto invocato dall'incapacità della politica di gestire una situazione estremamente complessa, di risolvere le cose, di, appunto, togliere le castagne dal fuoco, visto che siamo in autunno. Punto e a capo. I politici, credo, in Italia siano, come posso dire, incivili. Abbiamo un'inciviltà politica, abbiamo una classe politica incapace di dare una chiave di lettura vera ormai da 40 anni a questa parte. Quindi Monti le piace o no? A me Monti piace molto, nel senso che è l'ultima spiaggia, sono tutti tecnici, è l'ultima speranza che abbiamo per sopravvivere. La classe politica in Italia è rappresentativa di noi italiani, disse bene una volta il buon presidente Cossiga, quando anche i cretini devono essere rappresentati in Parlamento. Ho purtroppo la sensazione che in Italia a questo punto ci siano, la maggioranza degli italiani siano dei cretini. Ecco, questo era un po' il tenore della scorsa settimana, forse l'avrete intuito. Questo è un brevissimo estratto di un, appunto, dell'intervento di un ascoltatore, di uno di voi, che chiama durante la trasmissione, poco dopo le 9 del mattino, di Oscar Giannino. Dunque, la disaffezione, la delusione della politica, il governo Monti che in qualche modo viene evocato veramente quasi con una aurea quasi mistica, oso dire. Insomma, tutto questo anche preludio poi del voto di ieri, il voto della Camera su 617 deputati che hanno partecipato alla votazione, 556 voti a favore, 61 contrari, di cui possiamo calcolare rapidamente 59 leghisti più altri due, ma insomma un voto a favore che non ha precedenti. Allora, un'idea, abbiamo detto, quasi mistica, salvifica di questo governo, ma non dimentichiamo c'è chi si dichiara contrario. Uno di questi, uno che si ribella a questa idea, è per esempio il direttore del giornale Alessandro Sallusti. Lo sentiamo. Monti e la sua squadra vengono fatti passare in queste ore per degli eletti, ma non degli eletti dagli elettori, ma degli eletti da Dio, degli unti del Signore. Insomma, non è così, primo perché sono gli economisti negli ultimi anni non hanno dato prova di grande efficienza e lungimiranza, perché sennò non saremmo in queste condizioni, e in secondo luogo non dimentichiamoci che c'è un Parlamento. Qualsiasi governo, anche di unti dei signori, poi deve fare i conti con un Parlamento. Tant'è vero che i mercati, che sono cosa più seria che non gli opinionisti dei giornali finti indipendenti, stamattina sì, certo, guardano con grande interesse e attenzione a questa svolta italiana, ma nei limiti di quello che è giusto guardarli. La borsa sta facendo un discreto, mi sembra più 1,5 in questo momento, lo spread sta scendendo in maniera ragionevole, ma non è che è cambiato il mondo per il mercato, e quindi, come dire, userei più cautela anche nell'osannare e invocare questo governo tecnico. Assolutamente, cautela. E d'altra parte la fine della settimana registra un allentamento delle tensioni sui titoli di Stato italiani, un dato positivo della borsa. Insomma, è ovvio, tutto è da costruire, di certo la fiducia in questa fase è molto forte. Allora, all'opposizione di questi 556 deputati che votano sì al governo Monti, rimane solamente la Lega. Per Roberto Maroni, che sentiamo in un breve passaggio registrato ieri mattina, si tratta a questo punto di garantire i meccanismi della democrazia. Noi abbiamo un atteggiamento molto laico. Primo, garantiamo l'opposizione in un Parlamento. Mi ha fatto molta impressione vedere tutti d'accordo, e quindi un'opposizione garantisce i meccanismi della democrazia in un Parlamento, no? E questo è il primo compito che la Lega ha, garantire i meccanismi, che anche dentro qui ci siano i meccanismi della democrazia. La Lega, insomma, si smarca. Intanto Berlusconi annuncia il congresso nazionale del PDL in primavera. Ecco un appuntamento che, come dire, si prevede movimentato. Sulle divisioni del PDL sentiamo invece un servizio di Cristina Carpinelli. Dire che il PDL è spaccato è dire poco, questo nelle stanze che contano. Ma la base invece, quella che ha votato PDL perché il leader era Silvio Berlusconi, che cosa pensa oggi? Lo abbiamo chiesto a chi amministra città, regioni e province, e dall'interno del partito racconta di un elettorato disorientato dai cambi di poltrone, da chi cioè si è spostato in altri partiti all'ultimo momento. Come ci racconta l'ex sindaco di Chivasso Mottola, oggi consigliere regionale PDL Piemonte. Tutta la pletora di personaggi anche locali che sono stati dietro nascosti dietro al decisionismo di Berlusconi, lei immaginerà, è pieno il mondo, per dire. Le basi per ripartire non possono essere altro che creare delle regole chiare dentro il partito, chi ci sta, e avere anche il coraggio di perdere dei pezzi, creare una struttura che permetta una dialettica reale. Dunque, nonostante le posizioni nette espresse in piazza, la realtà è che, dietro le frasi di amore indiscusso per Berlusconi, date soprattutto ai giornalisti, in realtà la base del PDL qualche ragionamento lo stava facendo da tempo, come ci conferma anche il senatore Ulisse Di Giacomo, coordinatore regionale del PDL Molise. Io rimango del parere che bisogna restare nel gruppo, nel partito in cui si è stati eletti, e nel momento in cui non si condivide più la linea politica di quel gruppo, di quel partito, ci si dimette. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo dunque per ricordare in fondo un po' a tutti noi questo appuntamento di primavera annunciato da Silvio Berlusconi, il congresso nazionale del PDL. Ecco, la politica dunque si riposiziona, restando però al balcone, restando in qualche modo osservatrice, costretta, forzata rispetto a questo governo. Arriva il sì dei centristi, centristi coalizzati, molto vicini, direi in sapor di DC, e anche con un Antonio Di Pietro che dopo alcune titubanze iniziali si è messo in linea pro Monti già a inizio settimana. Per quanto riguarda noi dell'Italia dei Valori, gli abbiamo detto che certamente meglio Monti che Berlusconi al governo per presentarci in Europa, ma che nel merito vogliamo vedere quali provvedimenti pone in essere, perché non è che una coltellata se te la dà una persona amica sente un dolore diverso da una coltellata dentro una persona avversaria. Ma detto questo, noi vogliamo consentire che il governo Monti si installi affinché si passi da questa fase di confusione e si ritorna a una fase di dialogo con l'Unione Europea. Questo per quel che riguarda l'Italia dei Valori, e abbiamo sentito e citato appunto l'ex ministro degli interni Maroni, e naturalmente lo facciamo anche per Bossi. Bossi addirittura dice: Monti è una copertura, l'hanno premiato per fare il cattivo, ma lo cacceranno quando la gente si incazzerà. Questo è il commento di ieri del leader della Lega parlando con i cronisti alla Camera. E rimaniamo sempre in campo leghista. Campo leghista, per farvi sentire un altro ospite delle nostre trasmissioni, è Francesco Speroni, già ministro delle riforme, racconta alla Zanzara quali sono i vantaggi di lasciare il governo. Le piace stare all'opposizione, Speroni? Beh, non è che piace stare all'opposizione, dice, c'è dice, finalmente siamo all'opposizione, molti dicono finalmente, molti tiriamo fuori le bandiere, rispolveriamo il Parlamento padano. Sì, nel senso che stando all'opposizione hai molta più libertà di espressione, di azione, cazzate, eccetera. Diciamo, no, quello lo facevamo anche al governo. Anche al governo. Questa è buona. Non avete mai avuto limiti. È una battuta, bravo. Ma insomma, no, ma ci sta. Abbiamo sempre detto quello che pensavamo. L'azione è diversa. No, l'azione è diversa, sei vincolato, perché appunto, soprattutto in coalizione, hai siglato un patto, un accordo, e devi rispettare gli accordi. Adesso possiamo uno dire che non che ha degli accordi ancora. È molto più libero. Adesso via secessione, Dio Po. Questo anche prima. Questo non l'abbiamo detto, in altra avete epoca. Avete rispolverato il Parlamento del Nord. Da che serve il Parlamento? C'era fino ad oggi il Parlamento del Nord. Era una cosa che ormai non si riuniva più. Ma chi c'era? Una lì? Sede vuota, totalmente. Beh, allora il CNEL, quando si riunisce, chi se ne accorge? È un organo costituzionale. Il fatto che sul CNEL c'ha ragione lui. Però. Sì, non c'è dubbio. Il fatto che uno è un organo costituzionale, l'altro allora, è una noi abbiamo ritenuto fiction. Opportuno, essendo al governo, evitare contrapposizioni tra il Parlamento nazionale che sosteneva un governo e il Parlamento padano che difende esclusivamente gli interessi del Nord. Scusi, della però Padania. La differenza è che il Parlamento adesso italiano esiste, quello del Nord non esiste proprio in natura, il Parlamento del Nord. Allora, se lo vogliamo come Parlamento riconosciuto internazionalmente dalla Costituzione, però possiamo benissimo fare un'assemblea e chiamarla come ci pare piace. Certo. E questo era dunque Speroni che parla alla Zanzara di Giuseppe Cruciani. Ci sono naturalmente un'infinità di commenti, di riflessioni, una delle quali, un po' dei leitmotiv della settimana, è stato quello della relazione tra l'incarico a Monti, l'andamento delle borse da un lato, dello spread sui titoli di Stato e così via. Abbiamo detto già poco fa che c'è stata di fatto la conclusione di una settimana quantomeno che non ha ripetuto certe tensioni violente delle settimane e dei giorni precedenti, quindi tensioni che si attenua nel corso delle ultime ore di contrattazioni. D'altra parte rimane anche insomma l'interrogativo sulla opportunità di pretendere reazioni a così breve, anzi brevissimo tempo da un governo che ovviamente è in carica da poche ore. Su questo tema sentiamo Luigi Zingales, professore di economia all'Università di Chicago, ospite in settimana quando appunto soprattutto questo elemento del dato della borsa era del tutto incerto, ospite, dicevo, di Sebastiano Barisoni, sentiamolo. Ma guardi, il problema, come diceva Einaudi, è che i risparmiatori sono come gli uccelli, una volta che uno li fa scappare da un albero è difficile farli tornare indietro, quindi purtroppo i problemi che il governo italiano ha messo in luce hanno spaventato la gente, gli investitori internazionali, e prima di riconvincere questi investitori che tutto è tranquillo ci vorrà un po' di tempo e tutto deve filare liscio, quindi chiaramente già queste ambiguità e queste trattative per la formazione del governo spaventano, però secondo me dobbiamo prepararci moralmente e spiritualmente, che non è che Monti, per quanto bravo, possa avere la bacchetta magica, quindi gli spread scenderanno lentamente solo nel momento e nella misura in cui il governo riesce a far approvare delle misure stabili e c'è una prospettiva di una soluzione a lungo periodo. Questo dunque è il pensiero dell'economista. Chiudiamo invece questo blocco, questa pagina, con il commento invece del numero uno della nazionale di calcio, Gianluigi Buffon, che viene incastonato invece dal nostro Dario Ceccarelli per uno dei suoi graffi della settimana. Il graffio di Dario Ceccarelli. Questa popolazione credo che mai come in questo momento abbia bisogno di un appoggio importante, l'appoggio di una classe politica coesa, di una classe politica colta, di una classe politica responsabile. Anche questa volta ci salva Gianluigi Buffon, la famosa solitudine dei numeri primi. Eccolo qua, il nostro Dario Ceccarelli. Vi ricordo radio24.it, trovate quotidianamente i suoi aggiornamenti, le sue letture della cronaca, appunto in chiave molto personale. Punto e a capo. La Turchia aiuterà il Consiglio Nazionale Siriano, che riunisce gran parte delle correnti dell'opposizione, a svilupparsi sia in Siria che a livello internazionale. Ecco, il proposito arriva direttamente dal capo della diplomazia turca, Ahmet Davutoglu, che ha seguito da vicino la nascita del CNS, creato proprio dopo una serie di riunioni in Turchia. Questa è sicuramente, come dire, una chiave di lettura di una delle notizie internazionali della settimana. La crisi in Siria non trova soluzione, l'alleato storico nell'est, nell'oriente del Mediterraneo, della Siria, quindi appunto la Turchia stessa, parla, esprime esplicitamente il proprio sostegno alle opposizioni. Questa è una delle notizie da ricordare per questa settimana. Un altro dei temi di cui abbiamo parlato, anche se naturalmente con meno enfasi, siamo stati tutti concentrati su quanto accadeva, su quanto è accaduto a casa nostra, dunque la formazione del nuovo governo, ma nello stesso tempo abbiamo raccontato e intervistato i protagonisti intorno a una delle peggiori crisi internazionali in corso ormai da mesi, e mi riferisco al Corno d'Africa. Ecco, l'epidemia di colera che è esplosa e che ha provocato alcune centinaia di casi nel campo di Dadaab. Dadaab, lo ricordo, è nel nord del Kenya, di fatto raccoglie i profughi dalla Somalia e attualmente raccoglie qualcosa come 400.000 persone che vivono dentro capanne e disterpi in una condizione climatica ambientale estremamente difficile. Corno d'Africa che cerca di rimettersi in piedi dopo la lunga siccità. Ci sono le piogge, ma naturalmente ci vorranno mesi perché queste possano trasformarsi in un raccolto. Intanto però prosegue l'operazione militare, l'operazione internazionale lanciata dal Kenya contro le truppe islamiste, filo Al-Qaeda, degli Al-Shabaab, dei giovani appunto islamici somali. Insomma, si cerca anche attraverso l'intervento militare sostenuto da Francia e Stati Uniti di modificare la situazione, di riportare a un minimo di normalità possibile questo paese martoriato da anni. Ecco, noi ne abbiamo parlato con il commissario europeo responsabile per l'emergenza e la cooperazione internazionale, Si tratta del lettone Andris Pibalks. La situazione nel Corno d'Africa resta estremamente complessa. L'Unione Europea ha approvato lunedì scorso un progetto quadro per la regione che affronta i temi della rappresentatività politica, quelli della sicurezza e, naturalmente, quelli dell'emergenza umanitaria e dello sviluppo economico. La buona notizia è che il movimento armato di Al-Shabaab, che in Somalia rappresenta la principale causa di insicurezza, vede progressivamente ridurre la presa sia nei confronti della popolazione civile, sia per quello che riguarda l'operazione delle forze dell'AMISOM, la forza di pace africana presente con 10.000 uomini, a maggioranza ugandesi e burundesi. Io credo che si vada profilando, per la prima volta in 20 anni, la possibilità di accrescere realmente la sicurezza e la stabilità regionale. Ci sono poi le parti della Somalia, e mi riferisco al Puntland e al Somaliland, dove le condizioni di sicurezza hanno già fatto importanti passi in avanti negli ultimi anni. Tutto questo contribuisce a definire un quadro di maggiore speranza. Noi continueremo a lavorare per assicurare la sicurezza alimentare della popolazione, ancora a rischio per l'instabilità generale. E continueremo dunque il lavoro sui campi di raccolta. Ma finalmente possiamo cominciare a lavorare anche perché le persone possano lasciare i campi profughi, ritornando alle loro case, e possano dunque assicurare da soli il proprio mantenimento. Io credo che a fronte di tutte le complessità che pure sono presenti, adesso c'è la possibilità che le istituzioni di transizione nel paese possano rafforzarsi e puntare a diventare delle strutture stabili per il governo del territorio. Insomma, ci sono le condizioni su cui lavorare e noi anche per questo non dobbiamo perdere fiducia nell'azione internazionale. Voglio anche aggiungere che la battaglia alla pirateria che ha provocato e continua ancora a provocare gravi danni e lutti è una battaglia che si deve vincere a terra e non certo nel mare. Dall'Africa orientale a quella occidentale, dove è iniziato ieri il secondo viaggio pastorale di Benedetto XVI nel continente africano. Nel primo viaggio in Africa nel 2009 in Camerun ed Angola, Benedetto XVI pronunciò una forte denuncia contro la corruzione delle classi dirigenti africane e contro la discriminazione delle donne, parole che furono in parte oscurate dall'attenzione su un'unica frase, come ebbe modo poi di ricordare lo stesso pontefice nel libro Luce del Mondo, quella sull'uso del preservativo nella lotta all'AIDS. Ma l'Africa è tra le priorità di Ratzinger, che per la seconda volta vi fa ritorno facendo tappa in Benin, 7 milioni di abitanti. Da lì partì l'onda dell'evangelizzazione che investì gradualmente tutta l'area circostante e con il Papa la popolazione cattolica locale festeggerà i 150 anni da quando i primi missionari in modo stabile e continuativo avviarono l'opera di annuncio. In Benin i cattolici sono il 34% della popolazione, poi ci sono gli islamici e le religioni tradizionali, diverse fedi che da tempo convivono e dal 92 lo fanno anche con il voodoo, riconosciuto come religione ufficiale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. E noi cambiamo nuovamente pagina, vi raccontiamo una storia che potrebbe valere dai 15 ai 40 miliardi di euro. È Valentina Furlanetto che ci spiega come il governo, come lo Stato italiano potrebbe avere questi soldi da un paese vicino e per averli sarebbe sufficiente una stretta di mano. Da 15 a 40 miliardi di euro. L'Italia, d'un colpo, potrebbe trovarsi in cassa una cifra che vale una mini manovra che di questi tempi butta la via. Nessun taglio ai servizi ai cittadini, nessun prelievo forzoso, solo una stretta di mano. Si potrebbe infatti ricavare questo gruzzolo da un accordo con la Svizzera, siglato già da Gran Bretagna e Germania. In Italia il tentativo è stato quello, promettendo condoni, di far rientrare i capitali. L'ultima volta è stata nel 2009-2010, ma in realtà quelle somme erano all'estero e lì sono rimaste. Quanto si può recuperare? Londra e Berlino hanno stretto accordi con un'aliquota che va dal 19 al 34%. L'Italia finora ha portato avanti trattative sotterranee, ma ufficialmente ha detto no, in nome della trasparenza. Infatti gli euro rientrati sarebbero anonimi. Peccato che tanti scrupoli per la trasparenza non ci siamo fatti con lo scudo fiscale, la cui aliquota era di appena il 5%. Alla signora Merkel l'accordo è fruttato 4 miliardi. I tedeschi hanno però un'evasione estera molto più bassa della nostra. Si calcola infatti che la nostra ammonti a circa 200 miliardi di euro e il 70% starebbe proprio in Svizzera. Si arriva quindi a quella forbice che, secondo l'aliquota che verrebbe applicata, potrebbe andare dai 15 ai 40 miliardi di euro. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Insomma, che ci vorrà mai per una stretta di mano? Ossigeno invece dal fisco, ossigeno ai conti dello Stato. In arrivo ci racconta come Anna Marino. Dal fisco arriva ossigeno per le casse dello Stato, soprattutto grazie alle imposte indirette, e intanto il debito pubblico scende per la seconda volta di fila, e quanto risulta dai dati del Ministero dell'Economia e di Banca Italia. Nei primi 9 mesi di quest'anno, infatti, le entrate tributarie hanno raggiunto quota 281,9 miliardi di euro, con un aumento di 4,42 miliardi di euro e una crescita tendenziale dell'1,6%, cioè rispetto allo stesso periodo tra gennaio e settembre del 2010. Il Tesoro però precisa che le entrate fiscali a settembre hanno segnato una battuta d'arresto e Banca Italia aggiunge che la diminuzione del debito rispetto al mese precedente, arrivato a settembre a quota 1.883,7 miliardi, è merito soprattutto di un'operazione straordinaria, il decumulo dell'attività del Tesoro presso la Banca d'Italia, controbilanciato dal fabbisogno registrato del mese. Fabbisogno che resta invariato rispetto all'anno scorso. A completare il quadro dei conti pubblici italiani arrivano i frutti della lotta all'evasione. Dall'inizio dell'anno recuperati 10 miliardi, cifra che secondo il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera arriverà a 11 miliardi entro fine dicembre. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Altri conti, altri numeri, e non sono buoni. Da ricordare quelli di Finmeccanica. Martedì di questa settimana il gruppo perde il 20% in borsa. Gianni Dragoni ci spiega cosa accade al colosso italiano della difesa e dell'aerospazio. Sentiamolo. Finmeccanica precipita. Il gruppo aerospaziale della difesa, controllato dal Ministero dell'Economia, ha perso il 20% in borsa dopo l'annuncio di una perdita netta di 358 milioni di euro per i primi 9 mesi dell'anno. Un risultato decisamente negativo, accompagnato da altre brutte notizie per gli investitori. Il bilancio dell'intero 2011 sarà ancora peggiore. Quest'anno non ci sarà il dividendo e nessuna indicazione è stata data sui conti dell'anno prossimo. Questi sono i conti presentati dal nuovo capo azienda Giuseppe Orsi, in una situazione di alta tensione con il predecessore, l'attuale presidente Pier Francesco Guarguaglini, che non ha partecipato al consiglio di amministrazione in evidente disaccordo. A mandare in profondo rosso i conti dei 9 mesi è un maxi accantonamento, ben 753 milioni di euro, deciso da Orsi per oneri legati al programma dell'aereo Boeing 787, il cosiddetto Dreamliner o aereo dei sogni, che si è però trasformato in un incubo per il gruppo Finmeccanica. Gianni Dragoni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. Eccoci qua per gli ultimi minuti di questo appuntamento con Punto a Capo. Insomma, abbiamo parlato di politica, di hard news nazionali e internazionali. Ora ci occupiamo per qualche momento di benessere e in particolare rispetto a questo netto cambiamento climatico degli ultimi 7-8 giorni, insomma il freddo che arriva. La nostra Nicoletta Carbone ne ha parlato con il professor Antonino Di Pietro, quindi abbiamo iniziato su Antonio Di Pietro questa puntata di Fatto. Qui abbiamo il professor Antonino Di Pietro invece che ci dà qualche consiglio pratico, appunto tratto dall'appuntamento quotidiano con Nicoletta Carbone. Sentiamolo. Sulla nostra pelle esiste un uno strato sottilissimo, quello che viene chiamato il film lipidico, è un velo di sebo e quindi di grasso, che come un po' negli animali, dove è molto più abbondante, aiuta la nostra pelle a proteggersi, soprattutto dal freddo, perché trattiene un po' più il calore. Quando con un lavaggio e con detergenti troppo aggressivi questo viene eliminato, la pelle si scopre, evapora di più l'acqua che c'è in profondità, questo porta ad una disidratazione, a un indebolimento della cute, per cui il freddo riesce a colpire molto di più la cute. Quindi la prima cosa, lavaggi con detergenti poco aggressivi. Che sono quelli, come li facciamo a riconoscere? Che sono quelli poco schiumogeni. Mm. Ecco, quando si dice un detergente aggressivo bisogna pensare alla schiuma. Sì, più c'è schiuma, ci piace più... molto certo. La schiuma, perché diciamo così sì. Ci lava, poi perché... fa molto star hollywoodiana. Sì. E poi si torna bambini quando si faceva il bagnetto con tanta schiuma. Sì, con le bolle. Invece adesso negli no. Anni scorsi. Adesso un po' è cambiato, per fortuna. Troppa schiuma vuol dire che si sgrassa troppo la pelle e quindi questa rende bollisce. Star hollywoodiana, beh, l'associazione mi fa davvero pensare al nostro prossimo servizio, che ci racconta invece una star tutta nazionale, Rosario Fiorello, ritorno in televisione a inizio di settimana col botto, direi naturalmente, come ormai accade da tanti anni. Fiorello esulta e lo fa intervistato con tutti i crismi dal TG1 e da Vincenzo Mollica. Pensiamo solo alla qualità del prodotto, del programma, sai, potevamo fare anche di meno. E invece? E invece abbiamo fatto il botto! Il botto! La Rai ovviamente festeggia questo che è davvero un botto. Il più grande spettacolo dopo il weekend sfiora i 10 milioni di telespettatori e il 40% di share ed è il più visto del 2011 dopo il Festival di Sanremo e prima della Nazionale di Calcio. Un successo straordinario e meritato, quello di Fiorello, un artista completo e brillante, dichiara in una nota il consigliere di amministrazione Rai Antonio Verro, o Tiziano Verro come l'ha soprannominato proprio Fiore in trasmissione. Sono certo, chiosa Verro, che anche la sua mamma, come il sottoscritto, auspichi per lui un futuro ancora più ricco di trionfi qui in Rai. Ma quanto è effetto Rai e quanto semplicemente effetto Fiorello? Forse il suo sbarco su Sky era un po' prematuro e allora i numeri non passarono alla storia. Ma cosa succederebbe adesso se il più grande showman dopo il weekend si inventasse una pensata alla Santoro? Internet, TV locali, satellite. Lui già si diverte tantissimo con la rete e gioca molto abilmente con Twitter e con i suoi video ha creato dei veri e propri microformat. Qualcuno dice che Fiorello ha dimostrato che è ancora il momento della TV generalista, ma c'è da chiedersi se semplicemente non sia sempre il momento di Fiorello. Insomma, la nostra Marta Cagnola puntuale, anche se raffreddata, l'avete sentito? Abbiamo parlato del freddo, poi abbiamo sentito Marta Cagnola raffreddata. Insomma, tutto torna, ma adesso invece facciamo il punto con il pallone, il calcio che torna sul campionato dopo la sosta nazionale. Carlo Gente, allora, si gioca e si gioca anche parecchio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Il campionato si riscalda invece, io direi, perché oggi sono in campo le tre di Champions League. In settimana avremo, ma avremo anche tempo per parlarne, una super settimana di Champions con il Napoli che riceve il Manchester City, il Barcellona Milano contro il Milan, insomma giorni di grandissimo calcio. Si comincia oggi e sul sipario sull'Inter alle 18, Inter che riceve il Cagliari, tante panchine cambiate, sul Cagliari sarà la prima volta per su quella del Cagliari sarà la prima volta per Ballardini. L'Inter ha una fame assoluta di punti perché, come ha detto Ranieri, fossimo una piccola saremmo in zona retrocessione. È chiaro che deve macinare un sacco di vittorie per sperare di tornare in corsa. Poi in serata 20:45 c'è la Lazio che va a Napoli da capolista ma senza Miroslav Klose, è una partita chiave anche per il Napoli che deve provare a rilanciarsi in questa corsa scudetto. E a proposito di panchine cambiate, c'è Delio Rossi per la prima volta alla guida della Fiorentina che riceve il Milan, con Allegri che alla vigilia ha detto dobbiamo arrivare in testa alla classifica il prima possibile, quindi ho l'impressione che dopo l'astinenza, Gigi, l'astinenza riempita a malapena dai gol di Balotelli, dalla nazionale che comunque è molto simpatica, gioca molto bene ma che ha raccolto anche una sconfitta con l'Uruguay, dopo tutto questo torna al campionato e torna alla grande. Torna, tra l'altro, tu ci hai appunto detto sostanzialmente questo weekend, ma diciamo che da qui al 20 dicembre, insomma, parecchie cose saranno comunque chiarite perché ci sono molti punti in gioco. Ci sono molti punti in gioco, ci sono un sacco di partite, naturalmente va a definirsi la prima fase di Champions League con le nostre che sono messe molto bene, addirittura Milan ha già passato il turno e vediamo se riuscirà a battere il Barcellona ad arrivare primo. Il Napoli ha messo bene, l'Inter che in campionato non va bene, in Champions League è prima nella classifica del suo girone, e poi si giocherà da qui fino alla pausa natalizia, abbiamo fatto i conti, si giocherà tutti i giorni tra partite di massima importanza come quelle di Champions e partite, se vogliamo considerarle tali, riempitivo di Coppa Italia, che si giocano comunque la sera d'inverno per motivi anche che mi sfuggono, che restano comunque abbastanza misteriosi. Comunque avremo calcio tutte le sere da qui fino alla pausa natalizia, per non farci mancare niente. Insomma, la grande abbuffata, tutto questo con la nazionale che invece rientra in letargo? È finita la fase? Beh sì, per un po' sì, e poi anche lì ci sarà davvero la fase di avvicinamento verso gli europei, con una primavera che porterà le amichevoli importanti dell'Italia e che porterà naturalmente la fase più interessante di Champions League, sperando di tornare ad abbuffarci di partite anche a primavera, che vorrebbe dire che le nostre tre hanno passato il turno. Tutti ma settimana turni. Lo scopriamo. Ecco, io tra l'altro mi piace ricordare questa settimana, lo scorso weekend, quella bellissima iniziativa che ha portato la nazionale in Calabria su un campo davvero per dare un segno, insomma, una nazionale di calcio che tante volte è criticata. Questa settimana ho sentito un portiere della nazionale fare un discorso politico di fronte al presidente, devo dire di tutto rispetto. La nazionale che va in Calabria per un'iniziativa di Don Ciotti, insomma, complimenti. Ma guarda, io non mi ricordo una nazionale così simpatica anche in maniera trasversale. Ha detto bene Prandelli, per la prima volta è una nazionale che gioca per se stessa e per tutti e non contro qualcuno. Grazie a Carlo Genta, con cui concludiamo questo nostro appuntamento, a Fabio Cantadore in regia. Non mi resta che lasciarvi naturalmente l'appuntamento con Punto a Capo per sabato prossimo poco dopo le 9, ora come sempre GR24, poi l'appuntamento con l'Europa. Buon fine settimana a tutti voi.